Radio Città Fujiko e il CRAP, Comitato Ricerche Associazione Pioniere, presentano Fumetti a Sinistra, il Pioniere, un mondo dentro a un balloon. Che mondo sarà se ha bisogno di chiamare Superman? Che mondo sarà, fa l'effetto del motore che non va. Bentornati a Fumetti a Sinistra, un mondo dentro il balloon che guarda a quegli intellettuali che fecero grande la pedagogia italiana e non negli anni 60 e negli anni 70. Deccano del fumetto italiano, maestro prima e professore universitario poi, grande esperto dell'illustrazione dei mass media, il marchigiano Antonio Feiti, bolognese d'adozione, ci racconti i suoi punti di partenza per diventare un ottimo insegnante. Studio il fumetto tutta la vita vuol dire molto, data l'età che ho, perché anche quando ero bambino io confrontavo gli stili, riconoscevo gli autori anche quando non firmavano, mi permettevo di dare giudizi altisonanti nei confronti di alcuni. E allora quando dico che il più bel fumetto della mia infanzia è la serie di episodi di Pecos Bill disegnati dal grandissimo Antonio Canale, io però rivelo qualcosa di me, perché Canale è uno stilista raffinato, è uno che guarda alla pittura, è uno molto complesso anche da un punto di vista segnico, e quindi che cosa rivelo di me dicendo grande Canale, grandissimo Pecos Bill, grande quell'epoca? Rivelo che mi piacciono le cose complicate, che anche perfino direi nel fumetto non prendo la strada facile. Certamente posso fare a meno di citare i 400 colpi di Truffaut, che è anche il film che ho visto più volte in vita mia, perché ne facevo oggetto di corsi, di esami molto attenti in senso filmico. Però credo che senza quel film io non avrei fatto l'insegnante, non avrei fatto il pedagogista, perché riconoscere nel 1959 che si può raccontare con questa capacità di analisi, con questa forza curativa, con questo ritmo perfino, l'infanzia, mi ha insegnato a percorrere una certa strada. Io quella stagione l'ho vissuta dicendomi: devo fare come Truffaut, devo studiare i bambini, devo essere un pedagogista. Quindi un film di un'importanza enorme nella mia vita. Catapultato in una Roma che non ti aspetti, finito di insegnare in una scuola di ultra periferia con ragazzi terribili, Albino Bernardini scopre e fa scoprire tutta la ricchezza intellettuale di quei scolari proletari. A Pitralata, ancora una volta, si riscopre la grande intelligenza presente nel nostro paese, una grande intelligenza però soffocata da un feroce classismo fatto di ignoranza, esclusione e razzismo verso i poveri. Perché io credevo di andare a Roma, come mi diceva la lettera del provveditore agli studi, invece mi sono trovato in un posto impressionante, a dire poco. Albino, nel 1960, quando lei arrivò a Pietralata, appena arrivò, cosa notò, cosa vide? Arrivai a Roma, sì, e poi andai a Pietralata e non sapevo neanche che esistesse Pietralata, invece era lì. C'erano case che facevano pena e chissà cosa aspettavo. Che lei immaginava il centro di Roma, Fontana di Trevi, E cose del genere, invece appunto, trovò le le baracche, baracche sì c'erano, le ma erano un po' più avanti. Lì era veramente terribile perché lì vivevano proprio allo stato animale quasi. Com'era la gente a Pietralata? Come vivevano? Che facevano? Che lavori facevano? E la gente di Pietralata è tutta povera gente, però della brava gente. Che lavori facevano? E in genere erano braccianti. Io su 13 alunni che avevo, 10 erano figli di braccianti che andavano a lavorare come potevano, un po' di qua, un po' di là. E i bambini di Pietralata erano terribili, terribili. I primi giorni, il primo mese, dico, è quello che mi hanno fatto maggiormente disperare. E non sapevo, ho detto, bel posto mi hanno mandato. Lei cercò di capire per quale motivo si esprimesse in Ecco, questo io la modo. prima cosa che feci fu quella di interpellare i genitori, cosa che sembrò così strano, che per loro era una cosa nuova. I genitori non erano mai venuti dentro la scuola, e invece con me vennero direttamente a parlare, a discutere, e trovarono una certa separazione da quello che facevano gli altri, da quello che facevo io. Questo è stato il colpo più terribile, però erano spaesati proprio. Albino, com'era la scuola che trovaste negli anni 60? Ma per scuola si intende qualcosa di serio. Invece lì ho trovato una cosa un po' diversa, che gli insegnanti soprattutto erano tutti dei poveracci, eravamo dei confinati, insomma. Molti di questi insegnanti neanche volevano stare là, per loro era quasi una punizione stare in borgata a insegnare. Ma loro reagivano ad una punizione. Molti insegnanti dicevano: vedo l'ora di andarvene via da Pietralata. Questa gente non bisogna avere pietà, bisogna lasciarli da parte, dicevano gli altri colleghi, e tu fai male a interessarti troppo delle questioni, delle famiglie, delle cose. Questo è uno dei pochi tratti di campagna tra Tivoli e Roma. Come Quando sono venuto era tutta campagna. andava a scuola ogni mattina? Certe volte andavo con la macchina, e altre invece, la maggior parte delle volte, andavo col pullman, era uno strazio anche da allora. Sette camini. Sette camini, quante volte sono venuto qua per far telefonate, porco d'un cane. I ragazzi erano trattati dagli insegnanti della vecchia generazione talvolta come dei furfantelli. Lei li trattò da ragazzi fieri e gagliardi. Quindi le piacevano questi ragazzi com'erano? Ma si capisce, mi piaceva perché erano gente spontanea, gente che faceva quel che pensava, che volevano essere liberi, ma non lo erano in una scuola come quella. Ecco, in me hanno trovato qualcosa di diverso, hanno trovato un certo Peppe, e si tolse un coltello dalla tasca, un piccolo coltello, e mi ha detto che mi avrebbe infilato, mi avrebbe punto la pancia con questo coltello. Allora non ci ho visto più, l'ho preso, l'ho strattonato. E lentamente, piano piano, ha cominciato a ricredersi. E anche il nanetto, Era un suo alunno, il era nanetto, nanetto, gli davano parecchie botte perché era piccolino. era il più piccolo di tutti, e ogni tanto veniva da me. Ormai mi stanno tormentando, e io cercavo di tenerlo come era possibile. Gli disse di fare, gli suggerì qualche cosa? No, dicevo, tu quando te le danno cerca di rispondere, Ecco, quella era l'unica cosa che potevo fare allora. Siamo a San Basilio? Sì, San Basilio, poi c'è Tiburtino III e infine Pietralata. Queste erano tre borgate più interessanti di questa parte di Roma. Lei andava anche nelle loro case poi a prenderli quando loro non venivano a scuola? Io sono stato nelle case di tutti i bambini. Era anche il tentativo di far parte di una comunità. Ecco. Come lei tentò di trasformare una scolaresca in forme, come diceva sempre Gianni Rodari, in una comunità, in un gruppo allegro e che aveva dei principi comuni anche di rispetto e di partecipazione. Sì, ma quello era la cosa più importante, quello, il concetto che mi aveva fatto cambiare la scuola, perché i primi giorni, quando ritornai dalla guerra ancora con i segni della guerra, i bambini li vedevo un po' diversamente, ma dopo subito riuscii a capire che era sbagliato poter riuscire ad avere certe cose solo con un comando. Se pensiamo che io ho fatto 2 anni di guerra e tutto l'altro periodo sono nato nel clima fascista, si capisce com'era impossibile certe cose. Felicità, non sei in città, viva la campagna, viva la campagna, la civiltà è bella ma, viva la campagna, che mi dà un arcobaleno sereno, l'odore del fieno, il canto corale di mille cicale, un bianco puledro, il fiore di cedro, le stelle più grandi nel ciel, ma io sto in città. Cemento, palazzoni, cartelloni di pubblicità, in macchina su e giù, lottando per di più con l'orologio che va, che va, che va. Yeah! Felicità, non sei in città, viva la campagna, viva la campagna. Lo abbiamo conosciuto come il maestro della TV, quello del Non è mai troppo tardi. Alberto Manzi, formazione cattolica, in realtà è ancora molto di più di quel maestro che comunque ha alfabetizzato decine di migliaia di lavoratrici e di lavoratori. È un raffinato intellettuale, scrittore e creativo, come testimonia il suo All the Way. È un coraggioso internazionalista che nelle vacanze estive si recava nell'America Latina ad alfabetizzare le popolazioni locali e per questo veniva tacciato di Pomaros dai vari governi fascisti. È un uomo che prima di altri si pone il problema della nuova immigrazione e tenta quindi un non è mai troppo tardi per i cittadini extracomunitari negli anni Ottanta. Su di lui ascoltiamo qualche appunto della ricercatrice Patrizia D'Antonio e poi lo stesso Manzi ci racconta il suo arrivo alla televisione di Stato. Il grande maestro Alberto Manzi, maestro degli italiani, ricordato così per la trasmissione Non è mai troppo tardi, che alfabetizzò più di 1,5 milioni di italiani e andò in onda per una decina d'anni negli anni 60. Manzi fu maestro, alfabetizzatore, divulgatore, formatore, una figura chiave in quella che è stato il rinnovamento pedagogico di quell'epoca, che inizia sicuramente a svilupparsi dopo, appunto nel dopoguerra, ma che avrà poi il suo apice negli anni 60 e 70, se già pensiamo con la legge della scuola media unica e poi a quel fermento di esperienze che andarono dalla scuola di Babbiana di Don Milani nel 67, all'esperienza di Mario Lodi con C'è speranza se questo accade a voi, passando per l'esperienza di un anno a Pietralata di Albino Bernardini nel 68, oppure l'MCE con Bruno Ciari. Sono anni di grande attivismo, di esperienze didattiche che cercano di trovare nuove forme appunto di scuola e più centrate sull'alunno piuttosto che sul maestro, con la famosa tradizione della lezione frontale di Gentiliana memoria, in cui il maestro concretizzava la trasmissione del sapere, che era poi appunto lo spirito, no? Nell'ottica della filosofia idealistica, e che quindi era un modello duro a morire

Allora bastava schizzare qualcosa, meglio che fosse stato incomprensibile all'inizio e poi si capiva alla fine, in maniera che quello stava lì, guardava e intanto mi doveva sentire. E la tecnica era questa: a un certo punto hanno interrotto la lezione, sento una voce che veniva per me, chissà da dove, che fa: abbiamo trovato il maestro, andate via tutti gli altri. Allora io faccio: grazie, arrivederci. Io non lei è qui. Veniva da famiglia giata ebrea, convertitasi al cattolicesimo per sfuggire alle persecuzioni naziste. Don Milani dapprima cerca una sua strada nell'arte e nella letteratura, poi, incontrata la vocazione, si fa sacerdote in quel di San Donato di Calenzano nel Fiorentino. Prete troppo scomodo per le sue predicazioni a favore dei poveri, viene trasferito nella parrocchia di Barbiana, luogo nemmeno raggiunto dalla strada per renderlo così lontano ed innocuo. Ma qui, in realtà, assieme ai figli ignoranti dei contadini, costruisce un modo di fare scuola rivoluzionario, capovolgendo anche le gerarchie del sapere. Lettera di una professoressa, testo nato da questa esperienza, diventa quindi un testo imprescindibile per ogni educatore che si rispetti. Ascoltiamo dallo stesso Don Milano cosa significa insegnare, cosa significa imparare, e poi da Pierpaolo Pasolini una recensione della lettera di una professoressa. In statistica si usa chiamare analfabeti chi non ha fatto la terza, semi analfabeti chi ha fatto la terza e alfabeti quelli che hanno fatto la quinta, ma questi sono distinzioni statistiche con pochissimo fondamento nel reale, perché io non considero che uno che sa leggere la Gazzetta sappia leggere. La Gazzetta ha un suo vocabolario fatto di non più di 200 vocaboli e uno può arrivare con certa facilità a leggere la Gazzetta dello Sport e capire fino agli ultimi particolari. Saper leggere la Gazzetta non significa saper leggere. Saper leggere significa a dir poco poco intendere il giornale dalla prima all'ultima pagina, oppure a dir poco poco intende la prima pagina del giornale, e non chiamerei cittadino a pieno diritto, cittadino sovrano, chi non fosse in condizioni di intendere davvero la prima pagina del giornale, oppure il livello di tribuna politica o il livello di un comizio. Quando la scuola è poca, il programma va fatto badando solo alle urgenze. Pierino del Dottore ha tempo di leggere anche le novelle, Gianni no, vi è scappato di mano a 15 anni, è in officina. Non ha bisogno di sapere se è stato Giove a partorire Minerva o viceversa. Nel suo programma di italiano ci stava meglio il contratto dei metalmeccanici. Lei, signora, l'ha letto? Non si vergogna? È la vita di 500.000 di famiglie. Ogni popolo ha la sua cultura e nessun popolo ce n'ha meno di un altro. La nostra è un dono che vi portiamo, un po' di vita nell'arido dei vostri libri, scritti da gente che ha letto solo libri. Che siete colti ve lo dite da voi, non c'è nessuno che vi chieda qualcosa di diverso. I miei eroici piccoli monaci, che sopportano senza un lamento e senza pretese 12 ore quotidiane feriali e festive di insopportabile scuola e ci vengono felici, non sono affatto eroi, ma piuttosto dei piccoli svogliati scansafatiche che hanno valutato, e ben a ragione, che 14 o anche 16 ore nel bosco a badare pecore sono peggio che 12 a Barbiana a prendere pedate e voci da me. Ecco il grande segreto pedagogico del miracolo di Barbiana. Povero Pierino, mi fai quasi compassione. Il privilegio l'hai pagato caro, deformato dalla specializzazione, dai libri, dal contatto con gente tutta uguale. Perché non vieni via? Lascia l'università, le cariche, i partiti. Mettiti subito a insegnare, la lingua solo e null'altro. Fai strada ai poveri senza farti strada. Smetti di leggere, sparisci. È l'ultima missione della tua classe. Il posto giusto per voi non è la ballo. La ballo per perché? Per voi sarebbe un partito, un sindacato. Alle riunioni sindacali e politiche o si va alla odietà o non si va più. Da aspettare di capirci quando avrai il figliolo con la scarlattina, la bambina con le consille e il ragazzino piccolo con la tosse canina, poi troverai come trovare la riunione la sera. Così succede che in Italia da 17 anni a questa parte tutti votano liberamente, hanno libertà di scopero, di organizzazione sindacale, di organizzazione politica, di legge giornale che vogliono, però al potere sono sempre quei pochi che alla vostra età non hanno badato. Thank you.